Mix 24 di Giovanni Minoli. Si avvicina la data del 23 giugno in cui i cittadini della Gran Bretagna decideranno se restare o meno dentro l'Unione Europea. Lo shock che subirebbe la nostra economia ci farebbe precipitare in una recessione di un anno, afferma il premier Cameron. Borsa in calo e sterline in picchiata. Lo spettro Brexit agita ancora i mercati. In Gran Bretagna i favorevoli alla Brexit sono ora la maggioranza, il 52%. Boris Johnson esprime disprezzo per l'accordo negoziato da Cameron, diventando il portabandiera dei sostenitori dell'uscita dall'Unione Europea. Timori per l'addio di Londra alla UE affossano le borse. Milano ancora la peggiore, perde quasi il 3%, zavorrata dai titoli bancari. Paradossalmente la piazza che ha tenuto meglio è stata Londra, perde l'1,16%. Dunque, una consultazione, quella sul Brexit, di grande importanza per il destino dell'Unione. Un passaggio destinato a diventare in qualche modo storia. La Brexit, che è la fusione, lo ricordo, di due parole, Britannia e Exit, può cambiare i rapporti dentro le istituzioni, in ogni caso segna uno spartiacque, perché da questa esperienza deriva una lezione: le istituzioni europee dovranno essere cambiate e cambiate profondamente. La prima notizia importante è che ieri per l'uscita dall'Unione si è schierato il Sun, il tabloid che diffonde 1.800.000 copie al giorno. Per dare un'idea, vale da solo tutte le copie dei primi 15 quotidiani più venduti in Italia. Il Sun ha oltre 4 milioni e mezzo di lettori su carta e lettori ben distribuiti in tutte le fasce d'età, altri 3 milioni su mobile e un oltre più o meno 1 milione di follower su Twitter. Dunque siamo di fronte a una potenza editoriale che invita a votare per l'uscita dal Regno Unito dell'Unione Europea, naturalmente oltre alla televisione di Murdoch che si è schierata sulla stessa linea. Quindi mi sembra un fatto straordinario. Mario Del San e Murdoch hanno spiegato ai lettori perché si appoggia all'uscita. Sarò sintetico, sì. E sentiamolo. Sentiamo allora che cosa ha detto nell'editoriale. Se restiamo, la Gran Bretagna sarà inghiottita in pochi anni dall'espansione senza sosta di questo Stato federale dominato dai tedeschi. La campagna del Remain, orchestrata dall'establishment, dalle grandi aziende, dagli europeisti arroganti e dalle banche straniere, ha cercato di terrorizzare tutti noi sulle conseguenze di un'esistenza fuori dall'Unione Europea. È il progetto della paura. Una strategia che prevede la disoccupazione di massa, l'ascesa dei tassi di interesse e dell'inflazione, il crollo dei prezzi delle case e perfino la guerra mondiale. È senza senso. Anni fa, gli stessi politici ed economisti che facevano queste apocalittiche previsioni sulla nostra vita dicevano le stesse cose se non avessimo aderito all'euro. Grazie a Dio, ci siamo fermati. Ecco, Pietrangelo, questa è musica per le tue orecchie. Fai un abbonamento al Sun? Sarebbe musica e farei l'abbonamento se fossi inglese. Sai, ci pensavo ascoltando questo editoriale che in fondo, se il Sud Italia ancora oggi paga pegno, un reagisse prezzo altissimo. Così. No, mi riferivo che comunque è un'antica ferita che ci è stata inferta dall'Inghilterra, perché comunque i confini della Gran Bretagna sono sempre il mondo, non certamente l'Europa. Non c'è dubbio. E dal loro punto di vista ovviamente è ben complicato immaginarsi assoggettati a una accolita di banche, stati litigiosi, di stati, e soprattutto di finte sovranità. Ma intanto comunque noi proviamo a sentire, per avere un quadro più generale, che aria tira Londra, perché è importante sentire gli umori, i sondaggi, insomma, vanno e vengono. Caterina Soffici è una scrittrice, una giornalista italiana che vive a Londra. Ecco, lei fa parte di quei 250.000 italiani residenti a Londra. Teme per il Brexit? Temo, sì.

Street, forse. È quello, quello è sicuramente. Anche qui, ecco, in questo ci stiamo molto italianizzando. Usiamo anche in Inghilterra, usano la l'Europa, le politiche per politica interna. Questa è proprio una vendetta e una diatriba interna al Partito Conservatore. Ecco Riccardo, abbiamo Riccardo da Treviso, buongiorno, dica. Pronto Riccardo? Pronto? No, non c'è Riccardo. Non c'è, ecco. Allora, insomma, gli inglesi comunque, la discussione è fortissima. Loro comunque in ogni caso hanno la possibilità di scelta. Noi nell'euro ci siamo trovati e non abbiamo mai votato. Ecco, 800 24 00 24, numero verde, lo ricordo, 349 238 66, l'SMS. Qui l'SMS, Mario, insomma, i sondaggi sembra che crescano a favore dell'uscita, però i sondaggi su cose del genere bisogna ascoltarli. Che dici? Però nell'ultima settimana hanno fatto una progressione impressionante. Stiamo a 6 punti secondo un sondaggio fatto dal Guardian e così dal Telegraph, uno di YouGov pure, e insomma secondo me il rischio è molto concreto, molto poi concreto. Sai, è crisi e quindi è anche opportunità, quindi bisogna vedere poi quali bisogna sono vedere questo della, lo sentiremo appunto. Ma la borsa comunque ieri ha bruciato 89 miliardi di sterline, l'altro ieri sul listino delle principali 100 società quotate 89 miliardi, la sterlina in uno stato di grande volatilità, no? Che non si vedeva dalla crisi del 2008. Riccardo da Treviso, Riccardo buongiorno. Buongiorno Minoli, dica. Buongiorno, dica. Allora, io premetto che sono un europeista convinto e ho come sogno gli Stati Uniti d'Europa. E allora? Però in questo caso faccio il tifo per la Brexit. Perché? Faccio il tifo per la Brexit perché sono convinto che con la Gran Bretagna a bordo sarà molto difficile realizzare il mio sogno. Infatti questo è il pensiero, è il pensiero di molti. Pietrangio, tu che dici? Io dico che noi, non avendo avuto la possibilità di votare, ci siamo ritrovati nell'euro e ci siamo di fatto impoveriti, ben più della metà che della metà degli stipendi medi. Non esiste più un ceto medio in Italia, diciamo, il ceto medio si è proletarizzato, c'è ormai il destino dei ragazzi è quello del precariato. Almeno loro, gli inglesi, hanno la possibilità di votare e di esprimersi. Io ovviamente non ho tanta fiducia in quella che dovrebbe essere la chimera degli Stati Uniti d'Europa. Per certo che i fatti danno ragione a questa condizione. Soldi non ce ne sono. Comunque Scaroni, che è Paolo Scaroni, ex amministratore delegato dell'ENI, oggi deputy chairman di Rothschild, ecco dottor Scaroni, si vota sul che fare. Ecco, ma se Churchill fosse vivo oggi, secondo lei che cosa voterebbe? Allora guardi, non dobbiamo mica far congetture su quello che avrebbe fatto Churchill. Churchill l'ha detto in un famoso discorso che tenne a Zurigo nel 1946, disse: io sono molto favorevole agli Stati Uniti d'Europa, che la Gran Bretagna sponsorizzerà, ma non ne farà parte, perché il gioco della Gran Bretagna è un gioco del mondo e i confini dell'Europa ne sarebbero stretti. Ecco, sicuramente ci potrebbe per il Brexit. Sicuramente. Senta, l'ex sindaco di Londra, abbiamo sentito a Boris Johnson, che è un conservatore anche lui, ma è avversario di Cameron, invece fa il tifo per l'uscita. Lo fa solo per ragioni di politica, di applicazione della politica internazionale alle questioni interne? No, non lo penso proprio. Boris Johnson lo conosco bene, ha il perfetto pedigree dell'elite inglese, è un intellettuale che ha studiato a Eton, Oxford, un cultore dell'impero romano e un cultore di Churchill, su cui ha scritto parecchi libri. Quindi lui la pensa esattamente come Churchill, pensa che i confini dell'Inghilterra siano il pianeta e non siano l'Europa, e quindi vuole conservare l'indipendenza dell'Inghilterra per questa ragione. E quindi l'obiettivo non è un obiettivo di politica interna, ma è un obiettivo di visione generale del ruolo dell'Inghilterra nel mondo. Alla fine magari ci sarà anche un gioco di politica interna, però sicuramente lui la pensa così per davvero. Ecco. Senta, ma se dovesse realizzarsi questo Brexit, facciamo questa ipotesi, lei che è un grande conoscitore, sarebbe peggio per la Gran Bretagna o per l'Europa?

vado, resto, vado, ma immagini se lo facessero tutti, se tutti i 28 paesi dell'Europa ogni 2-3 anni si facessero le domande se restano o se escono. Quindi... questo sarebbe una mazzata su ogni processo di integrazione in corso a Bruxelles. E quindi può essere veramente uno shock favorevole a ripensare l'Europa, diciamo, in qualche modo. Ecco, al posto di Draghi, lei come si sentirebbe all'avvicinarsi del referendum, Scaroni? Ma vedi, siccome Draghi non si occupa di Europa, ma si occupa dell'euro, e ma l'euro un po' c'entra. Non fa parte dell'euro, credo che il tema non lo riguardi di prima battuta, poi lo riguarda come riguarda tutti noi per ragioni politiche, ma lui è responsabile dell'euro e mi pare che su questo terreno abbia abbastanza da fare senza preoccuparsi del Brexit. Ecco, allora mettiamolo in un altro modo, dottor Scaroni. Draghi ha sempre detto che l'euro è un progetto irreversibile. Anche in caso di Brexit? Direi ancora di più in caso di Brexit, perché l'euro diventerebbe il cemento per gran parte dell'Europa, per i grandi paesi dell'Europa che l'euro l'hanno adottato. Certo. Senta, un'ultima cosa, sempre stando agli inglesi, che lei appunto conosce benissimo e oggi l'ho già detto, è deputy chairman di Rothschild. La Londra degli affari comunque l'ha detto, ma vorrei capirlo bene, è nettamente schierata contro il Brexit. Sì, guardi, allora le dico un po' come la vedo io. Sicuramente le dico, qui mi lancio in una previsione, il Brexit perderà. E perderà perché, come diceva Napoleone, gli inglesi sono una nazione di bottegai e quando vanno a votare non votano col cuore, votano col portafoglio. Allora, per il portafoglio il Brexit sarebbe un disastro e quindi voteranno a favore di rimanere nell'Unione Europea. Beh, abbiamo voluto risentire questa intervista di Scaroni perché mi sembra che fra tutto quello che abbiamo letto e sentito e visto in televisione, questa analisi fatta qualche giorno fa resta un'analisi molto molto precisa. Ricordo che a proposito del Brexit e delle sue conseguenze, il Sole 24 Ore di oggi è in edicola con uno speciale di 4 pagine di approfondimenti, di indicazioni, eccetera eccetera. Davide da Livorno. Davide, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno a tutti. Senta, io ho chiamato perché secondo me la risposta al tema di stamani ve l'ha detto benissimo qualche settimana fa, non mi ricordo bene il giorno, il professor Bagnai, quando lo intervistaste voi alla trasmissione. Questa Europa non ha senso. D'accordo. Questa Europa è contro qualsiasi tipo di. Quindi lei sostanzialmente popoli. Spera che esca l'Inghilterra, così l'Europa deve ripensarsi. Va bene. Grazie. Volevo dire, Vladimiro ci ricorda che i 5 Stelle hanno proposto un referendum sull'Europa. Sì, è vero. Ormai sono in minoranza, quindi posso fare spezzare una lancia per l'Europa. I bilanci delle famiglie italiane dal 1995 al 2013, dati in miliardi di euro, numeri, non opinioni, la ricchezza netta di tutte le attività delle famiglie italiane nel 1995 era 4.400 miliardi, nel 2013 è passata a 9.642 miliardi, è più che raddoppiata. Non so. Vabbè, ma questo col Brexit c'entra poco. No, c'entra perché si dice l'Europa ci ha impoverito. Ci ha impoverito come? Quando? Sono raddoppiate le attività reali. Allora, viva l'Europa, ma il Brexit che è un problema resta un problema. Sì, certamente, ma non si può allora confondere, no? L'aglio con la cipolla. Sì, però è vero che comunque la classe media è stata impoverita, questo è sicuro. Ma non è vero, no, ma non è vero, scusate, abbiate pazienza però. L'economia è l'economia, sono numeri. 4.400 miliardi nel 95. Mario, 9.000... i numeri sono numeri, la panza è la panza. Gli italiani dove sono? Ma dove sono questi italiani? Con la filosofia. Ma quale filosofia? Ma stai scherzando? Ma questo è un paese che fa 1.600 miliardi di PIL. Vuoi venire ad agire al mio paese e ti faccio vedere quanti sono disoccupati? Ma il mondo non finisce a gira, ragazzi. Noi però disoccupati, noi però sono stiamo parlando del Brexit. Sì, però però okay, con, no, li, con cose il diverse, dibattito Mario, certamente diciamo che non mi sfugge il problema, so è che il problema è che proprio per parlare di Brexit poi si confonde la cosa con l'Eurozona. Gli inglesi hanno la sterlina, primo, appunto, la Brexit, sono autonomi, la Brexit riguarda loro e loro le istituzioni dell'Unione Europea hanno soltanto dei vantaggi. Cioè io no, dico solo una cosa, ognuno, anche. No, ma io dico ognuno la sua opinione, però che la fondi su dati certi. Certo, non c'è dubbio, non solo dati certi ma anche impressioni, sì, perché però poi le sensazioni con le sono anche certo rilevanti. Sono rilevanti, perché... però alla fine, come diceva Scaroni, si vota anche col portafoglio. Esattamente, allora, vedremo, certi, vedremo quanto è grande e forte il portafoglio allora dell'inglese, perché... Alberto da Lucca. Ah vabbè, no, vabbè, dopo, Alberto da Lucca, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Mica. Sono d'accordo che l'Europa poteva essere un bel progetto, perché... Poteva, può e potrà. Potrebbe, può. Ora non è che si vede un grande risultato. Vabbè, perché... però Mario Secchi le ha detto dei numeri di fronte ai quali non si può discutere. Sì, ma i numeri... Ma guardi, la gente certe volte, certo, senza offesa, si sciacqua anche la bocca con l'Europa. Poi dopo la realtà si vede in tasca. Infatti io in ero, tasca. Io ero uno di quelli, un ceto medio, sì, che viaggiava sempre con 700-800, un milione in tasca, sì, perché certo c'era, si guadagnava. Ora viaggio con 50 euro, quindi sì, l'Europa mi ha impoverito, io parlo di me, ma come sì, me tutti si fanno il conto in tasca. La signora che ha chiamato prima, che non so chi è, che diceva che in Inghilterra chi crede nell'Europa sono intelligentoni e grandi professori, e gli ignoranti vogliono uscire. Secondo me non è vero, perché la gente poi si guarda in tasca sempre e vede l'Europa che non ti difende dal terrorismo, l'Europa che dà soldi alle banche. Capito? Poi dopo. D'accordo, va bene. Piove governo ladro, sì, va bene. Ok, d'accordo. Grazie. Devi dire una cosa? No, più io solo cose banali vorrei dire. Però una cosa. Però ho l'impressione che il portafoglio si sia assottigliato di molto. Mi affiderò a questi numeri. Che sono i numeri di Banca Italia. Fatto sta che non c'è lavoro, la mercato immobiliare fermo. La tua casa nel 1995 valeva la metà di quello che vale oggi. La ricchezza in abitazioni degli italiani era di 2.200 miliardi di euro nel 1995, sono diventati 5.000 nel 2013. Allora, poi io fate non lo come so, volete, saranno cioè, i numeri, però con ma 2 milioni, guarda, uno stipendio figura, di 2 milioni di lire, io sono ci per i fatti, no, con 2.000 se euro parliamo uno sull'altro facciamo siamo quello che fanno fatti tutti. Con 2 milioni di euro ci campavi, cioè, non è che tutto è filosofia, cioè, no, ma la filosofia qua, qua sta parlando di portafoglio ristretto. Sì, cioè, il mio pure, vabbè, il tuo è andata meglio, allora il tuo pure, come è possibile? Io pure, ma che c'entra, ma tutto, ma tu devi la ricchezza la devi sommare, i polli di Renzo bisogna tenerli presenti ogni tanto, non funziona come i polli di Renzo, ogni tanto bisogna tenerli presenti. Sì, certo, si chiama indice Gini della diseguaglianza, il famoso sondaggio di Trilussa, tre polli. Allora Mario, c'è una per andare in poesia tu. No, poesia no, io se voi se ci abbiamo tempo cito una cosa che è gli inglesi, guarda, cosa sono gli inglesi. Dai. Ok, musica. Vorrei dire alla Camera, come ho detto a coloro che hanno accettato di far parte di questo governo, non ho altro da offrirvi che sangue, fatica, lacrime e sudore. Abbiamo di fronte a noi un cimitero dei più penosi. Abbiamo di fronte a noi molti, molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza. Se chiedete quale sia la nostra politica, risponderò di muover guerra per terra, mare e aria con tutto il nostro potere e con tutta la forza che Dio ci dà. Di muover guerra contro una mostruosa tirannia mai superata nell'oscuro deplorevole elenco dei delitti umani. Questa è la nostra politica. Se chiedete quale sia il nostro obiettivo, vi rispondo con una parola: la vittoria ad ogni costo, la vittoria malgrado ogni terrore, la vittoria per quanto lunga ed aspra possa essere la via, perché senza vittoria non vi è sopravvivenza. Bisogna rendersi conto: nessuna sopravvivenza per l'impero britannico, nessuna sopravvivenza per tutto ciò di cui l'impero britannico ha preso le difese, nessuna speranza che l'umanità possa procedere innanzi verso il suo traguardo. Ma io affronto il mio compito con ottimismo e speranza. Sono certo che la nostra causa non verrà meno in mezzo agli uomini. In questo momento mi ritengo autorizzato a chiedere l'aiuto di tutti e dico: venite dunque, procediamo insieme con la nostra forza unita. E questo era Churchill di fronte alle camere nel maggio del 40. Però come un inglese ci ha detto, Scaroni un ha detto, inglese che salvò l'Europa. Sì, però Scaroni ci ha detto che loro vogliono uscire. 800 forse 24. Ci voleva un altro testimonial. Va 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblici. X24. Allora, non finisce questa discussione, no, sta continuando, le scritte, ci telefonano, ci scrivono, vabbè, ne avremo modo di parlare ancora, e intanto proviamo a rilassarci con quello che ci fa ascoltare Pietrangelo. Oggi sono tornato a Roma in treno e in una freccia, seduto sul lato del finestrino, c'era un siciliano con ancora sugli occhi i pezzi dei tramonti incontrati nelle albe del Petrarca. Era Jacopo D'Alentini e guardava dal finestrino e mormorava il sonetto Amor è un desio che ven dal core. Ed è questo. Eyes open wide, looking at the... Mario, dimmi. Dove vai con la tua bolla oggi? In Europa. Che bello. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. Bellissimo questo. You gotta be Zini. You gotta be. Bene, allora andiamo in Europa a est. Ecco, l'allargamento secondo me non è stata una grande idea, ma insomma andiamo a capire che cosa sta facendo la NATO, perché nel silenzio quasi generale nessuno se ne è accorto, eccetera, però i ministri della difesa hanno deciso, manderanno un rinforzo di truppe a est. Dove? In Polonia, ai confini con i paesi baltici, diciamo. Certo. Così, perché? Perché hanno tutti paura di un'aggressione. Di chi? Della Russia. Ora, l'abitiamo in Europa, appunto, siamo nel 2016, oggi è il 15 giugno, e a Washington sono fortemente preoccupati di un'invasione della Russia in Europa. Lo segnalo perché questa è una cosa veramente interessante. La reazione del rappresentante permanente di Mosca nella NATO è stata la seguente. Dice: una minaccia della Russia. Questo è il russo che parla. Sì, il russo che parla dice: la politica della NATO vive in una dimensione surreale. Una minaccia della Russia è un mito. Io penso che a Washington debbano avere qualche problema. Sono concentrati sulle elezioni, ma è strano. Francamente, è incomprensibile tutto questo. Però. Salamino. C'era una volta il 41%, e per ogni c'era una volta comincia o finisce una favola. A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. C'era una volta il 41%. Era lo smagliante risultato delle europee con cui Matteo Renzi, il leader che tutto il mondo ci invidia, e però non si capisce perché ancora nessuno... nessuno se lo piglia, ha poi costruito la narrazione dell'Italia, cancelletto cambia verso, altrimenti, senza di lui medesimo, ci sarebbe stato il diluvio, il populismo, l'ingovernabilità e non più le giornate di sole, la gente allegra, i portafogli Mario pieni e la stabilità per come ce la godiamo oggi. Certo che sono... C'era una volta il 41% e non c'è più Giovanni, un occhio a una pupa, non gli riesce più al premier che tutto il mondo ci invidia. La prima tornata elettorale, già con Torino, Bologna, Roma e Napoli, è stato un disastro. Per Napoli rischia di farsi assai male i ballottaggi nelle altre tre. Ancora ieri Piero Fassino, dopo averlo detto a Renzi, quando disse non c'è necessità che tu venga alla chiusura della campagna elettorale, lo ha ripetuto a Maria Elena Boschi. Ella, sentendosi laudare benignamente di umiltà vestuta, pur essendo cosa venuta di cielo in terra, si miracol mostrare anch'ella dunque da Fassino, caro Giovanni, ha ricevuto la stessa risposta. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. E vengo anch'io. C'era una volta il 41% e adesso invece patate. I ballottaggi incombono e Massimo D'Aleva, che come un certo santo è lungariello ma non scordariello, all'appuntamento alle urne ci va tenendo fede alla disciplina di partito. Leggiamo su Repubblica. Pur di mandare via Renzi sono disposto a votare Lucifero. La povera Livia Turco, fedelissima di D'Alema, chiamata a far parte della molto futuribile giunta Giacchetto, aveva detto: D'Alema è contro Renzi ma voterò Giacchetto. Con un sorrisetto, con sarcasmo, con gelido sprezzo, il presidente della Fondazione Italiani Europei così ha replicato: e che c'ho scritto Giocondor? C'era una volta il 41% e adesso Renzi dovrà vedersela con Lucifero, il quale, con l'aiuto di D'Alema, ha già corretto con la matita blu l'ultima asineria di Renzi, quella dei due mandati per il Presidente del Consiglio. Una sgrammaticatura che non tiene conto di un fatto semplice, e cioè che la prerogativa di nominare il Premier è del Capo dello Stato. Forse non ha il 41% Lucifero, ma una strategia sì: fermare Renzi alle amministrative e quindi Raggi, fortissimamente Raggi a Roma, e istituire i comitati per il no al referendum. Non ci saranno nuove elezioni se cade Renzi, dice D'Alema, ci sarà un nuovo governo e neppure il diluvio ci sarà senza Renzi, ma la bella stagione, e D'Alema con Lucifero così canta. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poter... Listen to me. No, vorrei dire una cosa, ma Pietrangelo, hai rovinato l'opposizione a Renzi, perché secondo me Renzi, dopo questa intervista di D'Alema, sta tranquillo. Ma non è un'intervista, questo è il trucco. Vabbè, la sua opinione è ancora peggio. Posso? Cioè, sì, certo. Sarò telegrafico. D'Alema deve imparare a perdere. Sì. Ha perso contro Renzi. No, si ha perso, deve sempre. Ma guarda, io mi limito a quello. Ha perso contro Renzi e basta. Poi sì, fa così. Quindi, però, c'è un dettaglio. Non dai, è che D'Alema è Lucifero. Scusa, vinto le hai ragione, ci siamo sbagliati. Certo, com'è che dice, no? Lucia? Bella l'autenticità di rapporti. Se non si litiga tra amici noi, veri, noi non c'è gusto, sempre. Che saremmo noi. Grazie, Lucia, molto, molto, molto gentile. Bolla, Mario. Vai. Qua siamo già più in là rispetto a quello che ascolto io, però la guerra l'ha colpito. Vai, che siamo in ritardo. Vabbè, senti, il siluro tedesco. C'è il siluro tedesco che sta viaggiando, non vi dico dove, anzi sì. Allora, i rapporti tra India e Italia, come sapete, dopo il caso dei Marò, sono al minimo storico, anzi sì, al minimo proprio di sempre, di sempre, di sempre. Il governo indiano, per chi non lo sapesse, ha congelato, significa che non si farà più, una commessa di 98 siluri che doveva produrre doveva fornire un'azienda del gruppo Leonardo Finmeccanica, commessa da 200 milioni di dollari, sono svaniti, però gli indiani hanno i sommergibili e quindi hanno bisogno dei siluri. Da chi li compreranno? Dai tedeschi. Un classico di questi tempi. E non solo, ma Defense News, che è un sito specializzato molto ben informato su queste cose, di solito non sgarra mai, riporta anche che le aziende tedesche non solo forniranno i siluri, ma il gruppo ThyssenKrupp è in trattativa con il governo indiano per la costruzione di 6 sommergibili convenzionali, e il governo indiano e quello tedesco e Berlino dunque stanno discutendo su un progetto per costruire 6 sommergibili invece a propulsione nucleare. Mario, 10 miliardi. È Finmeccanica che paga il prezzo dei Marò. È un'azienda italiana. La politica estera è anche questo, ovviamente. Però è interessante come i tedeschi si siano subito infilati in questa partita. I vuoti si riempono anche nel mercato. 800-24-0024, numero verde 349-238-6666, sms pubblicità. Mix 24. I gotta tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. Un momento storico senza precedenti. Una donna in corsa per la presidenza degli Stati Uniti. Per 8 anni, dal 93 al 2001, Hillary Clinton è stata alla Casa Bianca con il marito Bill. Come molte first lady, diventa una confidente, una consigliera preziosa. Prima di lei, Eleonora Roosevelt, Jackie Kennedy, Nancy Reagan e oggi Michelle Obama, mogli che hanno un ruolo determinante nella vita politica e sociale americana, mogli intelligenti e molto tolleranti. Ora Hillary gioca la sua partita e Bill collabora al suo successo con generosità e lungimiranza. Bill e Hillary, Love and Power, la favola dei due studenti universitari che hanno saputo diventare una coppia di potere, testimoni, documenti, rivelazioni, qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. (Ride) 800-24-0024, il numero verde. Beh, Pietrangelo, mi fai il canzoniere? La musica è nata. Io vorrei risentire soltanto il fragore della tua voce sul bruno macigno dell'aria, la tua voce. Allora ricordo 800-24-0024, numero verde 349-238-6666, l'SMS, c'è un piccolo aggiornamento? Sì, due cose da due paesi diversi, ma che riguardano in realtà un medesimo tema al volo. In Libia le forze di Haftar hanno conquistato 2 postazioni strategiche a Bengasi, che erano appunto in mani di ISIS, e in Iraq l'esercito ha liberato al controllo di ISIS la diga di Fallujah. Quindi intanto, sono due cose interessanti. Due cose importanti. Sì. Intanto da Padova abbiamo Anna Maria per il canzoniere. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. No, grazie a lei. Che cosa ci dice? Dunque, è tratto da Diceria dell'Untore di Gesualdo Buffalino. Giusto. Perfetto, complimenti. Grazie. Insegna letteratura italiana? No, io sono una cuoca. Cuoca? Meraviglioso, dove? Dove? Lavoro a Padova, insegno anche a Padova. Adesso stavo proprio caricando l'attrezzatura perché ho un pranzo di lavoro da portare per un cliente. Allora, mi raccomando, complimenti. E allora, per chiudere, Gloria Guerrera cosa ci racconta? Oggi è breve, perché l'amore è una cosa semplice. Tiziano Ferro. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice. E adesso te lo dimostrerò. Questo sono io, solo io, nell'attimo in cui ho deciso